Ritratto fisico e morale del curato d'Ars. L'aspetto fisico. Fuori dalle funzioni del suo ministero, ha detto un testimonio della vita del nostro santo, il curato d'Ars non aveva nulla di straordinario nel suo esteriore. La sua continua cura di eclissarsi e scomparire poteva lasciare delusi coloro che lo giudicavano ad un primo incontro casuale avvenuto forse sulla piazza del villaggio quando se ne ritornava dal suo orfanotrofio col vaso di latte in mano come un povero che avesse appena ricevuto l'elemosina. Una donna di Parigi che lo incontrò in queste condizioni e lo trovò tanto dissimile da quanto l'aveva immaginato esclamava con meraviglia. «Ma sì», rispondeva l'umile prete col più affabile sorriso, «vi succede il contrario di quello che è avvenuto alla regina di Saba quando si recò a visitare Salomone». Ella era sorpresa di trovarlo al di sopra delle sue previsioni e voi invece di vedere qualche cosa che è inferiore alle vostre speranze. Ma l'umiltà delle apparenze non poteva ingannare coloro che erano guidati dalla fede e dal desiderio di vedere un santo, cioè i veri pellegrini, per i quali la prima impressione suggeriva sentimenti di viva ammirazione, tanto la bellezza dell'anima trasfigurava i suoi tratti che senza di ciò sarebbero stati assai comuni. La sua statura era di poco inferiore alla media, ma negli ultimi anni della sua vita, causa l'abitudine di tenere il capo piegato sul petto, sembrava ancora più piccola. Il suo viso era magro, quasi sformato. Giorgio Seigneur, giornalista di quell'epoca, scrive che la faccia del curato d'Ars, stretta ed affilata dalle gote al mento, presentava l'aspetto di un cuore. La sua tinta, che era stata oscura nei giorni dell'infanzia e che si era ancora più abbrunita al sole dei campi, nelle interminabili sedute al confessionale, era diventata molto pallida. Presto, sul suo viso apparvero le rughe, cicatrici sacre, che parlavano della sua vecchiaia, ma ancor più delle sue veglie e delle fatiche eroiche. I suoi capelli, spessi e rigidi, che portava tirati sul capo e lunghi, fluenti alle spalle, non furono mai completamente bianchi. La fronte era alta, larga ed aperta, con arcate sopraccigliari prominenti. Nelle occhiaie infossate brillavano due occhi azzurri vivacissimi, di soprannaturale espressione, sorgenti di uno sguardo semplice e schietto, ma profondo, energico e scrutatore. Ne dà un cenno Don Dionigi Chalon quando dice «sembrava scrutarmi». Quando i suoi sguardi si incontravano con i miei, mi penetravano fino in fondo all'anima. Ho conosciuto una persona che mi disse di esserne stata spaventata. Qualche volta risplendevano come diamante. Anche nella conversazione con lui si era colpiti da quello sguardo che sembrava le cose dall'aldilà. Ma più sovente, nei momenti di riposo, i suoi occhi si velavano di una malinconia dolce e rassegnata. Senza dubbio, allora il suo pensiero andava da Dio offeso agli uomini che lo offendono. Da tutto ciò forse derivava l'estrema mobilità della sua fisionomia. Non che avesse dei tic o delle contrazioni ridicole del viso, ma i suoi tratti esprimevano in uno stesso istante la gioia e la tristezza, secondo che pensasse all'amore e alla bontà di Dio o alla miseria dei poveri peccatori. Così, invano più volte, si cercò di ritrarre i suoi lineamenti. Del resto, egli non vi si prestò mai volentieri. «So», disse un giorno quasi scherzando, «che qualcuno ha voluto ritrarre il mio carnevale, ma mi sono mosso ben bene per impedirglielo. Solo l'abile colpo d'occhio, il talento ed anche la costanza dello scultore Emiliano Cabuchet potrete mandarci di lui un ritratto discreto». Nella sua giovinezza aveva avuto un aspetto che manifestava il vigore del suo corpo, ma i digiuni avevano reso le sue membra così sfinite che da ultimo solo la sua energia straordinaria sembrava sorreggerlo. Le sue mani scarne, segnate da vene prominenti, davano a questo corpo rovinato dal digiuno e dal lavoro un aspetto di inimmaginabile magrezza. Natura eminentemente nervosa, nulla aveva perduto della flessibilità e della elasticità delle sue membra per ragione dell'età e delle fatiche. Ebbe anche il singolare privilegio di conservare fino all'ultimo il pieno uso dei suoi organi e delle sue facoltà, delle quali aveva bisogno per l'esercizio del suo ministero. La vista era sempre precisa, l'udito finissimo, la memoria fresca. La sua andatura, benché pesante, era rapida, come quella dell'uomo che tiene conto della preziosità del tempo e che, sfinito, vive nello sforzo di bene usare di tutti i momenti della giornata per la gloria di Dio. Si deve ritenere che Dio lo assistesse anche fisicamente in modo straordinario, perché aveva conservato tanto di forza da poter da solo portare fuori della chiesa lo stendardo grande, che è molto pesante e che gli altri a stento possono tenere alzato. Semplicità, delicatezza, bontà. In lui, attraverso l'involucro di un corpo sempre più smaterializzato e quasi trasparente, si indovinava, si vedeva l'anima. Essa splendeva sulla sua fronte e nello sguardo. E il fondo vero di quest'anima era la semplicità, la delicatezza e la bontà. Nelle sue maniere era esclusa ogni affettazione o convenzionalismo, e specialmente quell'amabilità puramente superficiale che ha tanta parte nella cortesia del mondo. Anche davanti ai più distinti personaggi si presentava con grande semplicità e senza alcun imbarazzo. Quando venne a fargli visita il Cardinal de Bonald, arcivescovo di Lione, nato come lui nel 1786, Don Vianney corse ad incontrarlo e per primo gli tese le braccia. Più tardi, quando ricordava questo incontro, confessava di non avere avuto più imbarazzo di quello che aveva incontrando un sacerdote. Monsignor Ullathorne, vescovo di Birmingham, dopo una visita a Don Vianney, scriveva il 14 maggio 1854: «Ci ha riservato un'accoglienza di semplicità delicata, umile e caritatevole, senza nulla di quel genere di complimenti che sono l'orpello di una falsa umiltà. La sua era un'umiltà pura, naturale e spontanea, unita alla gentilezza cordialissima di un santo». Un giovane di nobile famiglia, che era venuto da Marsiglia ad Ars per confessarsi da Don Vianney, dopo la confessione chiedeva al fratello Atanasio di che famiglia fosse il santo curato, dove avesse compito gli studi, che società avesse frequentato e che posti avesse occupato prima di venire ad Ars. Quando il fratello Atanasio con tutta semplicità gli ebbe spiegato che Don Vianney era figlio di contadini e che non aveva quasi fatto studi, la meraviglia di quel signore fu grande. Infine fratello Atanasio chiese: «Ma perché mi fate queste domande?» «E perché mi ha meravigliato la cortesia squisita con la quale Don Vianney mi ha ricevuto. Appena entrato in sagrestia mi rivolse amorevolmente il saluto, mi indicò l'inginocchiatoio e non si sedette se non dopo che mi fui inginocchiato. Finita la confessione si è alzato prima di me, mi ha aperto la porta con cordiale saluto e poi con uguale cortesia ha introdotto un altro penitente». Fratello Atanasio replicò semplicemente che allo stesso modo Don Vianney si comportava con tutti i penitenti. «Ora comprendo», conchiudeva l'altro, «è un santo ed ha la vera delicatezza che viene dalla carità». Anche quando riceveva qualcuno alla provvidenza o nella sua camera, non si sedeva mai se prima non si fossero seduti gli ospiti. La sua parola di accoglienza era sempre «vi presento i miei rispetti», ma variava il tono a secondo del grado di amicizia o della condizione di coloro ai quali rivolgeva il saluto. La sua veste sdrucita non lo poteva far rassomigliare a San Francesco di Sales, ma alcuni testimoni hanno ricordato di lui esempi di soavità degni della vita del mitissimo vescovo di Ginevra. Il 23 giugno 1855 ricevette da una persona di Ars una torta ornata di figure in rilievo rappresentanti un bue, un leone, una giraffa ed alcune tortorelle. Ricevendo questo dono, che ben presto avrebbe fatto felice qualcun altro, disse queste parole: «Il bue rappresenta la forza, il leone il coraggio, la giraffa l'anima che sale a grandi passi verso il cielo e le tortorelle l'anima che si eleva al di sopra delle cose della terra». Marta di Garez attesta quanto fosse l'ansia della folla nel circondarlo col desiderio di vederlo più da vicino e di potergli parlare, e come fosse soprattutto uno spettacolo unico ed incantevole osservarlo, quando lo si accompagnava alla sagrestia ed egli si voltava con la sua solita affabilità per dire una buona parola. La stessa Marta di Garez cercava in tutti i modi di trovarsi sul suo passaggio e lo stesso i suoi fratelli e le sue sorelle. Il santo, passando, accarezzava con amabilità i bambini mentre le bambine dovevano accontentarsi del suo sorriso e del pio ammonimento. «Fanciulli, figli miei, amate tanto il Signore!» Un possidente di Ars, Andrea Benedetto Trev, che aveva avuto la fortuna di vivere a lungo vicino al suo santo curato e lo apprezzava moltissimo, disse di lui queste parole piene di ammirazione. Nonostante la vivacità naturale che appariva dalla mobilità e dalla penetrazione del suo sguardo, l'incontro con lui era sempre pieno di attrattiva. Se non lo si fosse venerato come un santo, lo si sarebbe amato come il più caro degli uomini. Ma nessuna debolezza nella sua soavità. È vero che usava speciali riguardi a persone che li meritavano, ma non si permise mai di stare con esse oltre il tempo necessario. Sapeva quanto fosse prezioso il suo tempo e quando credeva di aver detto tutto non permetteva che la visita continuasse più a lungo. All'uopo sapeva anche ripetere agli importuni: «Ho molte occupazioni, ho fretta». Quando un povero o un afflitto aveva bisogno di intrattenersi con lui per un quarto d'ora o anche più, accondiscendeva con tutta facilità e quando persone distinte manifestavano il desiderio di salutarlo, pure le riceveva, ma anche in questo non permetteva si impiegasse più del tempo necessario. La signora Mandy Chipiot vide venire un'intera famiglia nobile che il santo accolse nel parlatoio fatto preparare di fronte alla canonica. La visita non durò più di 5 minuti e la famiglia, che prima era stata felice dell'onore che le faceva il servo di Dio, parve costernata di vederlo scomparire così presto. Presentandosi l'occasione, sapeva anche far stare la gente al proprio posto. Un giorno, in mezzo alla folla, si levò la voce di un uomo poco cortese, che si permise di indirizzargli parole sconvenienti. «Chi siete voi, amico mio?» gli domandò Don Vianney. Quell'uomo, avendo risposto che era un protestante, il nostro santo concluse calcando sulle parole: «Oh mio povero amico, voi siete povero, molto povero. Voi protestanti non avete neppure un santo di cui possiate imporre il nome ai vostri figli e siete costretti a prenderli quasi a prestito dalla Chiesa Cattolica». E ciò detto passò oltre. Una donna che stava davanti al suo confessionale e che voleva passare prima del suo turno, pensando forse di abbagliarlo con titoli veri o supposti, diceva: «Io non attendo mai in nessun luogo, neanche in Vaticano». «Eppure», si sentiva rispondere con dolce malizia dal servo di Dio, «dovrete ben aspettare davanti al confessionale del povero curato d'Ars». Nel mese di agosto del 1854 un giovane presuntuoso venuto da lontano tentò di parlare al santo mentre attraversava un piccolo gruppo di pellegrini nel breve tratto tra la chiesa e la canonica. «Signor curato, vorrei discutere un poco con voi sulla religione». «Voi, amico mio, parlare di religione? Ma voi la conoscete meno di un bambino. Voi siete un ignorante, amico mio, un ignorante». «Figlia mia, qual è il mese dell'anno nel quale parlate meno?» disse un giorno ad una giovane che lo aveva già stancato con le sue importune ed insipide chiacchiere, usando di una frase spiritosa ben nota. E siccome costei rispondeva di non saperlo, egli conchiuse, attenuando con un buon sorriso il senso troppo aspro dell'espressione: «Deve essere il mese di febbraio, perché ha 3 giorni meno degli altri mesi». Un cuore buono. Don Toccanier ha detto bene che il curato d'Ars aveva per natura un cuore buono, che facilmente si dava in lacrime alla vista di un infermo, di poveri orfani, di una madre o di una sposa in lutto, e non cercava nemmeno di nascondere la sua commozione. Vi era in lui una grande sensibilità, direi anzi una effusione di sensibilità, ma non vi era alcuna forma di debolezza. Altri, che si fossero trovati nelle condizioni di una continua fatica e tribolazione, avrebbero acquistato buona dose di nervosità. In lui, invece, l'equilibrio del temperamento e più ancora l'ammirabile virtù concorrevano affinché mantenesse in ogni momento una inalterabile moderazione. E così lo si vide sempre uguale a se stesso, sempre previdente, nonostante la diversità dei modi che erano talvolta usati a suo riguardo. «Nel suo cuore non entrò mai un pensiero di vendetta», ha scritto il suo primo coadiutore, Don Raimond, che doveva ben saperne qualcosa. Egli non sapeva che amare, perdonare e ringraziare. Speciale predilezione che manifestava con squisita tenerezza nutriva verso le anime pure ed i bambini innocenti. Sulla strada si fermava per dire ad essi una buona parola, fissandoli con lo sguardo dolce e penetrante dei suoi occhi profondi. E come si trovava bene in mezzo ad essi. Fondata la provvidenza, si recava volentieri in mezzo alle orfanelle, compiacendosi a vederle giocare e sempre disposto a usare con esse la più larga condiscendenza. Ed i piccoli, che con lui non avevano motivo di temere, si permettevano tutto nei suoi confronti. Un giorno del 1852, quando ebbe finito il suo catechismo delle 11, una bambina, alzandosi in piedi, si permise di toccargli un capello, che sembrava più lungo degli altri. Con amabile sorriso il santo si accontentò di dirle: «Bambina, ama tanto il Signore». Nel 1858 una signora di Lione giungeva ad Ars con i suoi due figli, di cui il maggiore, di allora 12 anni, desiderava conoscere la sua vocazione. Dopo aver assistito alla messa, questo fanciullo avvicinò il santo quando nel suo raccoglimento che toccava l'estasi si spogliava con molta lentezza dei paramenti sacri. Vi erano là preti e laici che aspettavano di parlare col santo, ma il nostro piccolo lionese si permise di passare innanzi e fu anche il primo favorito. «Cosa vuoi, bambino?» gli chiese con quella voce un po' tremolante ma così dolce che più non si dimenticava quando la si era sentita una volta. «Signor curato, vorrei sapere...» «Tu sarai un buon prete», riprese il santo, senza la minima esitazione. Il fratello più giovane, di allora 6 anni appena, seppe la cosa ed il giorno seguente si presentò anch'egli al santo per una domanda di diverso genere. Da alcune settimane gli avevano comperato un sillabario nei cui confronti provava un'antipatia ogni or crescente. «Andrò a domandare al curato», egli disse alla mamma, «se devo imparare a leggere». Il giorno seguente, a mezzogiorno, il santo, nel passare dalla chiesa alla canonica, vide questo bambino che desiderava farsi chiarire il suo dubbio. «Signor curato, devo imparare o giocare?» «Gioca, bimbo mio, è l'occupazione più adatta alla tua età». Forse mai una decisione del santo fu accolta con tanto entusiasmo. «Mamma», gridava il bambino con tono di vittoria, «il curato mi ha detto di giocare». Sensibile ai sentimenti dell'amicizia, ne apprezzava le manifestazioni e vi rispondeva con tenera effusione di cuore. La santità non dissecca i cuori, ma anzi li dilata e li fa liquidi. I santi, aveva ripetuto sovente, hanno un cuore liquido. Quando il cuore è puro, non può impedire di amare, perché ha trovato la sorgente dell'amore, che è Dio. Quando scoppiò il colera del 1854, Don Toccanier si recò a Seyssel, suo paese nativo, per lo spazio di 3 settimane. Al ritorno, il giovane missionario, impaziente di rivedere il suo santo curato, si presentò al confessionale, ove si trovava dalla mezzanotte. Appena questi lo ebbe visto dal luogo delle sue quotidiane fatiche, uscì, lo abbracciò teneramente e gli disse a bassa voce: «Siete giunto finalmente, amico mio. Come mi sembrava lungo il tempo senza di voi. Pensavo che i dannati debbono sentirsi ben infelici nell'inferno per la separazione eterna da Dio, se già sulla terra si soffre così tanto per la lontananza delle persone che si amano». Conosceva tutte le delicatezze della riconoscenza e parlava con accento commosso e con lacrime di sua madre e di Don Ballei. Anche verso la famiglia di Garez mostrava sentimenti di squisita amabilità e, scrivendo al conte Prospero di Garez, usava quasi sempre queste parole: «Mio venerato benefattore». Il giorno 7 novembre 1823 scriveva alla madre Fayot dei Robin: «Vi prego di dire a tutti coloro che conosco a Noès che presento loro i miei rispetti e l'espressione della mia riconoscenza e che la bontà che mi usarono non sarà mai cancellata dalla mia memoria». Non sapeva in qual modo manifestare la riconoscenza alla sua cara benefattrice dei Robin e quando più tardi venne a trovarlo ad Ars una delle sue figlie, egli volle comperarle un ombrello di seta in memoria delle cure di cui egli era stato oggetto da parte di sua madre. Don Camelet, superiore dei missionari di Ponden, aveva mandato un giorno ad aiutare Don Toccanier un giovane predicatore che era alle prime armi. Don Vianney lo andò subito a cercare per consegnargli una bella corona del rosario. Nel 1849 i fratelli della Sacra Famiglia di Belley presero, nella scuola dei ragazzi, il posto di Giovanni Pertinan, che la dirigeva da 12 anni. Il nostro santo non vi consentì fino a quando si fu rassicurato che questo cambiamento non sarebbe stato un motivo di pena o di sacrificio per il caro amico, al quale cercò un posto conveniente. In ogni occasione sapeva dimostrare la sua gratitudine. Un'immagine, una semplice medaglia che a lui si offrisse gli sembrava di gran pregio. Forza di consolazione. Don Alfredo Monnin, che conobbe così da vicino il nostro santo, parlò con precisione ed esattezza della potenza di consolazione che emanava da Don Vianney. Sono passate davanti a lui tutte le miserie della terra. Padri, madri e spose in lutto, vere moniche in cerca dei loro agostini, ammalati di corpo ed anima, stanchi della vita, cuori spezzati, scoraggiati, disperati. Ed egli sembrava che in quei momenti non pensasse che ai loro dolori. Ascoltava con compassione le confidenze amare e levava al cielo le sue mani scarne e tremanti. Infine consolava con una tenerezza tutta sacerdotale, lieto di asciugare tante lacrime. Dopo aver riversato le proprie pene nel suo cuore profondo, si ripartiva più rassegnati, più tranquilli, più forti di fronte al dolore, alle prove e all'avvenire. Don Borion, al quale Don Vianney aveva dato un prezioso perdono, ci dice che non lo si lasciava mai senza averne riportato un prezioso conforto al cuore. Don Stefano Dubois, il desolato parroco della parrocchia di Farein, che era ancora infestata dall'eresia giansenista, racconta: «Io posso affermare che tutti uscivano dalla visita fatta a lui con pensieri più sereni e con maggiore coraggio a sopportare le prove della vita». Un gendarme, che aveva dovuto sopportare lunghe sofferenze a causa della sua salute, scrivendo a Don Vianney, lo chiama «efficace consolatore degli afflitti» e sottolinea questa frase suggestiva con un tratto di penna. Ha ragione Renato Bazin di scrivere: «Che prodigioso operaio di felicità umana e divina! Quale forza di consolazione e di risurrezione è passata in questa parrocchia! Per ogni dolore aveva la parola opportuna e giusta, breve e spontanea, ed otteneva con quella ciò che altri non avrebbero ottenuto con lunghi discorsi. Non si attardava in consolazioni umane che stimava sempre inefficaci, ma usava quelle consolazioni che ricavava dalla fede, elevando i cuori delle persone afflitte. Sia fatta la volontà di Dio, diceva, si deve volere quello che Dio vuole, bisogna essere contenti di quello che Dio manda». A Marta Miar, povera mercante di Ars che si lamentava con lui di perdite fatte nel commercio, suggeriva questo pensiero: «È meglio tutto questo che il peccato». La stessa Marta Miar aggiunge: «Il curato di Saint-Jean-Bourgneuf nell'Isère, mia parrocchia natale, non aveva creduto dapprima alle meraviglie che io gli avevo raccontato. Ma quando a cagione di una grande pena che lo affliggeva venne ad Ars, mi sembrò cambiato fin dal primo momento che vide Don Vianney. Le parole del santo, amico mio, meditate la pazienza di nostro Signore, erano bastate perché si disponesse ad accettare la croce con un'assoluta rassegnazione». Era arrivata nel villaggio di Ars nel maggio del 1855 una donna che aveva bisogno di consolazione e sollievo in una malattia che la faceva molto soffrire. Dopo una novena fatta con molto fervore, non trovandone alcun vantaggio, si rivolse al coadiutore di Ars pregandolo di interessare il curato per sapere se sarebbe guarita. Il coadiutore immediatamente comunicava all'ammalata la risposta del santo: «Siccome questa persona è pia, la croce le sta bene. Per essa la croce sarà una scala che la condurrà al cielo. Sua cugina Margherita Humbert venne un giorno ad Écully per raccomandargli una sua figlia gravemente inferma. È un frutto maturo per il cielo», le rispose il servo di Dio. «Quanto a voi, avete bisogno di croci per ricordarvi del Signore». Un giorno ricevette una lettera da Noès, Claudina Fayot, che egli aveva conosciuto bambina, era gravemente ammalata e sua madre faceva conoscere a Giovanni Maria, che amava come un figlio, il suo dolore e i suoi timori. Il santo rispondeva per mezzo del suo coadiutore: «La terra è ben poca cosa, e Claudina moriva poco dopo santamente. La signora Chamonard di Saint-Romain-le-Île, nella Saône et Loire, un'eccellente cristiana unita in matrimonio al più incredulo degli uomini, nell'estate del 1855 era riuscita a persuadere suo marito ammalato e molto sofferente a recarsi a consultare il curato d'Ars. Lo sposo, dapprima contrario ad una tale proposta che gli sembrava molto strana e poco degna di lui, spirito libero, per il desiderio di riacquistare la salute finalmente, aveva accettato di recarsi ad Ars e dopo molte insistenze accettò anche di varcare la porta della chiesa. Era l'ora nella quale Don Vianney faceva la lezione di catechismo. Appena quest'uomo fu entrato nella chiesa, il santo lo fissò con i suoi occhi scrutatori, causandogli tale turbamento che egli uscì subito di chiesa, giurando in cuor suo che mai più vi sarebbe entrato. La moglie, appena poté avvicinare il santo, si accontentò di chiedergli la guarigione di suo marito, ma Don Vianney le rispose: «I dolori non sono gran cosa, ma c'è ben altro, bisognerebbe guarire l'anima. Voi intraprenderete una missione che qui comincia appena». Questa sposa si allontanò da Ars col cuore pieno di ammirazione e di singolare fortezza, unita alla più consolante speranza. Suo marito moriva 4 anni dopo, non senza essersi riconciliato con Dio e convertito. Francesca Lebeau, una povera giovane di Saint-Martin-de-Commune nella Saône-et-Loire, completamente cieca, accompagnata da sua madre, intraprese il viaggio per Ars, che compì nel più severo spirito di penitenza, mendicando il pane e riposandosi nelle stalle. Don Vianney, al primo incontro, aveva compreso col suo sguardo scrutatore la bellezza di quell'anima e non dubitò di dirle una parola intorno al mistero divino che circondava la sofferenza. «Figlia mia, voi potreste guarire, ma se voi guarite, la vostra salvezza non è tanto sicura come se rimaneste cieca. Se al contrario volete conservare la vostra infermità, potrete andare in cielo ed io vi garantisco che lassù avrete un bel posto». La cieca aveva perfettamente compreso. Non domandò più la guarigione, ma ripartì da Ars col cuore rassegnato. Don Vianney non usava mai compassionare le madri colpite dalla sventura di perdere figli in tenera età. Quando alla contessa di Garez morì un bambino di 5 anni, a chi si era recato a dargliene la notizia, il santo disse queste parole: «Fortunata madre, fortunato fanciullo, che grazia per tutti e due! Come ha meritato questo innocente che fosse abbreviato il tempo della lotta e che godesse così presto della felicità eterna!» Ma qualche altra volta non si vergognò di piangere con quella distinta donna cristiana. Col suo tatto delicato era riuscito a far accettare la morte al maggiore dei figli della famiglia di Garez, di nome Eugenio, di allora 25 anni, e la sua fine rassegnata, avvenuta il 1 febbraio 1855, era bastata a consolare sua madre. Ma quando 5 mesi dopo questa pia signora perdette il suo secondo genito, Giovanni, il suo prediletto, ferito mortalmente all'assalto di Sebastopoli, non le mancò la tentazione di disperazione, ed allora il nostro santo corse al castello, ove consolò piangendo questa povera madre accasciata sotto il peso della croce. «Siate grande e forte, non lasciatevi abbattere, ma sappiate accettare la croce». E col tono di una compassione infinita la chiamò «la madre dei dolori». Quando la contessa di Garez rievocava quell'ora di grande lutto, parlando del suo curato, aggiungeva queste parole: «Dopo averlo ascoltato, ci si sentiva rinascere e si comprendeva di essere capace di accettare e portare la propria croce». Epistolario spirituale. Ma non tutti gli afflitti potevano andare ad Ars a confidare al santo le proprie pene. Molti dovettero accontentarsi di scrivergli, dando origine a quella voluminosa corrispondenza che ogni giorno il santo trovava nella sua camera, sulla piccola tavola di quercia, e che leggeva rapidamente senza riuscire a sorrerla tutta. Erano innumerevoli anime che si sfogavano con lui, esprimendo dubbi, raccomandandosi alle sue preghiere, deponendo nel suo cuore dolorose confidenze e grida di amarezza. Ma come avrebbe potuto rispondere a tutti personalmente, data la folla dei pellegrini che si stringeva al suo confessionale? Nacque così spontaneamente e naturalmente il bisogno di avere dei segretari, che trovò nella persona di Caterina Lassagne e poi successivamente in Don Raimond, in Dotto Canier e nel fratello Atanasio, ai quali indicava solo il senso della risposta, che qualche volta però firmava di suo pugno. Delle lettere scritte dalla mano del servo di Dio ne rimangono solamente due, indirizzate ad un suo cugino, fratel Chalovet, destinato dall'obbedienza all'ospedale di Lione e tormentato da gravi tentazioni. Vale la pena di indicarne almeno alcuni punti. Mio buon amico, vi scrivo in fretta per dirvi di non partire nonostante tutte le prove che Dio vi manda. Fatevi coraggio e pensate che il cielo è abbastanza ricco per potervi ricompensare. Non dimenticate che tutti i mali di questo mondo sono l'eredità delle anime buone. Voi soffrite una specie di martirio, ma quale fortuna per voi essere un martire della carità. Non perdete questa bella corona. Beati coloro che soffrono persecuzioni per amor mio, ha detto Gesù Cristo, nostro modello. Addio, mio carissimo amico, perseverate nella buona via che avete scelto così felicemente e ci rivedremo in cielo. Lettera del 25 luglio. Coraggio, mio buon cugino, presto vedremo questo cielo così bello e per noi non vi saranno più croci. Quale fortuna vedere questo buon Gesù che ci ha tanto amato e che ci farà tanto felici. Lettera del 17 maggio. Tra le lettere a lui indirizzate ve ne sono di quelle commoventi. Poiché si riteneva che riuscisse a leggere nei cuori, tutti si sentivano disposti ad aprirsi a lui con spontaneità, manifestando senza falsa vergogna o rispetto umano le loro piccole o grandi miserie. Anche qui riferiamo alcuni brani delle poche lettere che si sono potute conservare. Il parroco di una parrocchia poco cristiana indirizzò al suo santo confratello, che provava le medesime angustie, queste parole piene di mestizia. Me le sei per Givry, diocesi di Autun, 3 dicembre 1858. Mio carissimo padre, sono un vostro penitente e un vostro figlio e vengo ad implorare in modo tutto speciale l'aiuto delle vostre preghiere che valgano a scongiurare una grave disgrazia che mi minaccia. Si prepara nella mia parrocchia un grande scandalo e ricorro a voi per impedirlo. In occasione della solennità di San Nicolao, che si celebra lunedì prossimo, una società di vignaioli ed altre persone si preparano a tenere per 2 o 3 giorni una festa mondana con balli e gozzoviglie di ogni sorta per trascinare al male molta gente ed anche fanciulli, per i quali sono in grande pena. E tutto questo in avvento, e proprio quando ci prepariamo a celebrare la festa dell'Immacolata Concezione della Santa Vergine, nostra buona e tenera madre. Mentre faccio una novena alla Santa Vergine per allontanare questo scandalo, vi prego di unire le vostre preghiere alle nostre. Don Ferret. Ma più numerose sono le lettere ove si parla di vocazioni religiose, lettere spesso piene di angoscia e bagnate di lacrime. Una giovane di Bourgogne, il 2 febbraio 1859, gli indirizzava queste amare confidenze. Quando dunque il buon Dio romperà le catene che mi tengono legate a questo mondo corruttore, nel quale non si vedono che passioni e cattivi esempi. Vorrei appartenere a Dio, ma trovo un impedimento nella volontà della superiore generale delle suore del Santissimo Sacramento che si ostina a non volermi ricevere. Appena morta la mamma, il padre ci ha abbandonati per andare lontano in cerca di rifugio e di lavoro. Ed ora la superiore mi dice che questa è una macchia sulla nostra famiglia e che nella congregazione non possono essere ricevute delle giovani che vengono da tali parenti. Padre mio, se dovrò rimanere nel mondo, quante grazie ci vorranno perché io possa santificarmi? Sono molto leggera e voi stesso mi avete detto in confessione che sono troppo esteriore. Purtroppo ciò è vero, io credo sempre di essere osservata dal mondo, ma ho pure buona volontà. Pregate per me, padre mio, e sono persuasa che riuscirò a cambiare vita. Da Parigi ricevette un giorno la seguente lettera. Buon padre, ho udito parlare di voi, dei vostri miracoli, ed ho pensato che se Dio volesse farmi conoscere la sua volontà attraverso la voce del curato d'Ars, invece che attraverso tante preghiere, io sarei più presto esaudita. Rimango sempre una fanciulla, nonostante l'età, e so che il nostro Signore non respingeva i fanciulli. Sono però ben lontana dall'avere quella semplicità che li rendeva a lui così cari. Ho 16 anni e non ho ancora pensato seriamente alla mia vocazione, ma io voglio salvarmi. Iddio vi ha concesso il dono della penetrazione dei cuori e vi è facile vedere quello che passa nella mia anima. Sono indecisa e ho bisogno di essere illuminata. Gli scriveva un'altra giovane della stessa età. Sono molti gli ostacoli che si oppongono alla mia vocazione. Mia madre è molto pia, ma mio padre è un militare e sono sicura che sarà difficile ottenere il suo consenso. Un padre di famiglia, spinto dal dispiacere e da un intimo senso di rivolta perché sua figlia voleva scegliere la vita religiosa in un monastero di stretta clausura, scrisse al santo chiedendogli che impedisse la realizzazione di questa vocazione. Nim, 25 giugno 1855. Signor curato, la fama delle vostre virtù e dei doni meravigliosi che è piaciuto al Signore di conferirvi è giunta fino a noi ed una delle mie figlie di 20 anni si prepara a venire presto a domandare il vostro consiglio su un affare della massima importanza e dal quale dipende tutta la sua vita. Possiede tutte le qualità che le aprirebbero la via nel mondo, ma da alcuni anni ha manifestato una tendenza molto accentuata per la vita religiosa. Dapprima abbiamo pensato che questo desiderio fosse il risultato di una viva pietà in un'anima ancora ingenua, per naturale inesperienza, ma le idee hanno persistito. Non abbiamo affatto tenerezza egoistica per questa figliola, perché non desideriamo che il suo vero bene, e quando noi sapessimo che non sarà felice in questo mondo, se non attraverso la vita religiosa, sapremmo fare anche questo sacrificio per quanto ci sia penoso. Ma ci rincresce di vederla scegliere l'ordine del Carmelo, in cui nulla verrebbe a sollevare la vita di clausura ed il rigore del regime dell'isolamento. Questa è un'esagerazione e non avrà mai il nostro consenso, e quindi ci raccomandiamo a voi perché abbiate ad interessarvi per fare abbandonare questa idea a nostra figlia, la quale, quantunque non vi conosca, ha grande fiducia nei vostri lumi e nelle vostre sante ispirazioni, sembrandole che la parola che udirà da voi sia come la voce di Dio. Questo è il motivo per il quale si reca ad Ars insieme con sua madre. Signor curato, in questa circostanza solenne, nella quale si tratta di prendere una risoluzione decisiva e quasi irrevocabile, è necessario premunirla contro un passo inconsiderato. Se Dio la chiama veramente, come essa assicura, e se ad ogni costo vuole farsi religiosa, perché non sceglie piuttosto la congregazione del Sacro Cuore, che la già conosce, avendo fatto i suoi studi al pensionato di Montpellier e dove sarebbero così felici di riceverla? Perché vuole invece seppellirsi viva al Carmelo? Mia figlia si presenterà a voi fra pochi giorni. È a sua insaputa che mi permetto di avvisarvi in antecedenza per dirvi le sue disposizioni e per pregarvi di allontanare una decisione che diventerebbe una disgrazia per noi tutti. Sono convinto che se vorrete guidarla al Sacro Cuore piuttosto che al Carmelo, non avrà difficoltà a seguire il vostro consiglio, giacché anche là potrà servire ai disegni che Dio ha posto su di lei ed assicurare la sua eterna salvezza. È decisa a non ascoltare che voi, perché non ha più fiducia che in voi. Siete quindi in questo momento l'arbitro della sua sorte. Non ci è dato di conoscere la risposta del servo di Dio a questo grido della natura, ma non è necessario dimostrare che se Don Vianney ha visto che Dio chiamava quest'anima, la giovane Bossì, al Carmelo, l'ha anche aiutata ad entrarvi. I cuori afflitti, ostraziati dal dolore, trovavano facile ascolto presso il suo cuore di padre. Signor curato, gli scriveva da Parigi il 3 dicembre 1858 la baronessa di Breda, ben spesso sono giunti fino al vostro cuore i lamenti delle madri desolate per chiedervi il conforto delle vostre preghiere. Io vengo ad aumentarne il numero. E lo supplicava di salvare sua figlia, giovane vedova, che, assalita da una malattia misteriosa, era diventata una vera martire. Il 12 gennaio 1853 gli si iscrive da Grenoble. È un'anima desolata che viene ad implorare assistenza. Uno sposo e padre, rapito improvvisamente alla sua famiglia, lasciando i giovani figli alla inesperienza della madre. Quale argomento di immensa pietà! La povera madre voleva venire ad Ars per cercare non una consolazione, perché a tali disgrazie consolazioni non ci sono, ma almeno un raddolcimento alle sue pene, la rassegnazione alla sua mala disgrazia, la sottomissione alla santa volontà di Dio. Una persona di Lione gli scriveva dal suo letto di dolore: «In mezzo alle sofferenze di una lunga malattia, desideravo ricevere le consolazioni che voi elargite a tutti coloro che hanno la bella fortuna di avvicinarvi. Mi sembra che se fosse aiutata dalle vostre preghiere avrei maggiore pazienza a sopportare i miei dolori. Ed è per sollecitare questa grazia, sulla quale faccio tanto assegnamento, che mi permetto di indirizzarvi questa lettera, mio buono e reverendo curato». Don Vianney sapeva comprendere e non rigettava nessuna di queste raccomandazioni, ma non poteva portarle ad una davanti a Dio, e perciò le offriva unite nel memento della messa. Sovente, però, le lacrime che versava sopra tante miserie erano già state di per sé una buona raccomandazione presso Dio. Spirito, tatto, giudizio. Fin qui abbiamo detto del cuore compassionevole del curato d'Ars. Ci resta da parlare del suo spirito, del suo tatto e del suo giudizio sempre prudente. Diciamo dapprima che le sue relazioni d'amicizia erano sempre improntate ad una vivacità gaia, dolce e franca, e ad un abbandono pieno di amabilità. Tuttavia si mostrava di un estremo riserbo verso le persone che lo servivano, delle quali d'altronde ben conosceva l'abnegazione e la virtù provata, ma era la prudenza soprannaturale che gli suggeriva questa attitudine, come ha notato bene anche Caterina Lassagne. Quelli che lo avvicinavano spesso per prestargli qualche servizio in sua presenza erano presi da un sentimento di rispetto che li rendeva molto riservati. Qualche volta avevano paura perfino a parlargli di cose di urgente necessità. Era il Dio che così permetteva affinché quelli che si prestavano per le cose necessarie ciò facessero unicamente per la sua gloria. Ma la sua natura delicata e sensibile poteva effondersi liberamente almeno coi suoi confratelli, coi suoi coadiutori e con altri, specialmente la sera dopo le fatiche laboriose del confessionale. Ritornava alla sua camera accompagnato da un fratello e sovente erano con lui anche alcuni missionari, il sindaco ed altre persone. Erano in effetti ancora dei pellegrini che si disputavano l'onore di passare con lui gli ultimi momenti della giornata e Don Vianney li accoglieva volentieri. Ascoltava con piacere i fatti del giorno e soprattutto gli avvenimenti che riguardavano la Francia e la Chiesa, ma non si interessava della politica, se non in quanto aveva relazione con la religione. E quando gli si parlava delle cose di questo mondo, non sembrava prestarvi molta attenzione e ritornava subito agli argomenti favoriti. Don Luigi Beu, suo confessore, affermò che tutta la sua gioia era di conversare di cose spirituali e se qualche volta la cortesia lo obbligava a prendere parte a conversazioni di affari materiali, lo faceva solamente per quel tanto che era raccomandato dalla delicatezza. Provava piacere quando sentiva una consolante notizia che riguardava la Chiesa o la salvezza delle anime, ed al contrario il dolore del suo viso denunciava quello che passava nella sua anima quando gli arrivava la notizia di qualche scandalo. Il suo cuore, diceva il conte di Garez, era così pieno di amor di Dio che ne parlava sempre, anche nelle sue abituali conversazioni, durante le quali spesso congiungeva le mani esclamando con gli occhi levati al cielo: «Mio Dio, quanto siete buono!» E questo era anche il suo pensiero continuo. Un giorno Don Toccanea gli disse: «Oggi fa cattivo tempo, signor curato», ed egli rispose: «Oh, è sempre bel tempo per i giusti, è solo per i peccatori che fa cattivo tempo». Don Vianney non conosceva le sottili finzioni dell'amor proprio, ed ordinario non parlava mai di sé, né in bene né in male. Quando le persone intime volevano conoscere certi particolari che lo riguardavano e che potevano tornare in suo onore, non gli rivolgevano mai domande dirette, ma lo preparavano insensibilmente alle confidenze, che egli tuttavia era disposto a troncare anche bruscamente quando si accorgeva di essere entrato in un argomento per lui pericoloso. E quando continuavano ad insistere, rispondeva: «Basta così, ho già detto troppo». Si abbandonava volentieri ai suoi ricordi, ma ne parlava come di cose riguardanti un altro, specialmente quando avrebbero potuto essere a lui favorevoli. La più felice astuzia dei missionari, secondo la testimonianza di Don Dufour, era di ricordare ogni tanto, anche con viso indifferente, Don Balley, il cui nome bastava sempre a renderlo inesauribile. Ma dopo di averli intrattenuti un po' di tempo con familiarità piena di abbandono, appoggiato alla sua povera tavola, dava il saluto improvvisamente dicendo: «Ho l'onore di darvi la buonasera», ed allora si ritiravano pieni di ammirazione. Don Vianney era ingenuo, ma anche fine e di grande giudizio. Spirito osservatore, avrebbe potuto lanciare frasi pungenti e qualche volta amaro risentimento, ma se ne astenne per virtù, accontentandosi invece di gettare nelle conversazioni motti di amabile lepidezza, qualche volta piccante, od osservazioni alle quali non era estranea una certa delicata malizia. Erano espressioni che non offendevano nessuno, perché eventualmente la malizia che poteva essere nelle sue parole era temperata dal tono pieno di letizia e dalla graziosa espressione del volto. «Ad una mia sorella», dice Marta di Garez, che gli chiedeva reliquie, «fatene voi medesima», rispondeva egli, facendole intendere che a tal fine non aveva che da diventare santa. Una religiosa con estrema ingenuità gli disse: «Padre, generalmente si ritiene che siate un ignorante». «Oh, non ci si inganna, ma non fa niente». Un sacerdote della diocesi, Don Blancon, parroco di Bublan, che era di grossa corporatura, un giorno, intrattenendosi familiarmente con lui, gli disse con tono scherzoso: «Signor curato, io faccio un po' di assegnamento su di voi per arrivare lassù. Quando voi salirete in cielo, farò in modo di attaccarmi alla vostra veste». La risposta, accompagnata da un fine sorriso, non si fece attendere. «Guardatevene bene, amico mio. La porta del cielo è stretta e resteremmo ambedue alla porta». Ad una donna di proporzioni più che ordinarie che gli domandava che cosa doveva fare per andare in cielo, rispondeva: «Figlia mia, ci vogliono 3 quaresime. Un giorno, al catechismo delle 11, mentre alcune signore vestite alla moda del tempo si sforzavano di entrare in chiesa, ebbe a dire: «L'imperatore ha fatto tante belle cose, ma ne ha dimenticata una. Avrebbe dovuto fare ingrandire le porte per lasciare passare le crinoline». Mentre durante una forte pioggia il santo, che era uscito senza cappello e senza ombrello, stava costeggiando a grandi passi la casa dei fratelli, recandosi a visitare un malato, lo raggiunse di corsa fratello Atanasio. «Dove andate, amico mio?» «Mi porto un ombrello, signor curato». «Oh, non sono mica di zucchero». E ridendo prese il parapioggia e continuò la sua strada. Gli piacevano immensamente certi predicatori ed ebbe ad apprezzare Don Collette, morto parroco a Trevaux, che aveva preceduto nella cattedra di Ars Don Alfredo Monnin. Mentre Don Collette preferiva argomenti forti, Don Monnin sceglieva temi consolanti che svolgeva con la sua immaginazione sensibile e poetica. Parlando dei due, Don Vianney diceva: «Questi due predicatori ci conducono al cielo. Il primo su un ponte di pietra e il secondo su un ponte di fiori». Non si è mai udito che Don Vianney abbia violato la carità nelle parole. Solo una volta fratello Gerolamo, che si diceva portato allo scrupolo per sé e per gli altri, credette di averlo preso in fallo. Ma non aveva compreso che Don Vianney protestava contro gli intrighi di un famoso cavaliere d'industria troppo conosciuto nella regione. Il medesimo fratello aggiunse che Don Vianney domandava incessantemente a Dio che costui non potesse giungere al sacerdozio al quale aspirava. Sull'uso della lingua, il nostro santo si dimostrò sempre severo fino allo scrupolo, come ci indica una delle sue lettere del 1828 indirizzata al conte di Siben, e che sembra non avere altro motivo che quello di riparare ad un'apparente piccola colpa. Dopo un vago preambolo, con manifesto imbarazzo, egli infatti passa a parlare della mancanza che lo tormentava. «Una cosa che mi fa molta pena è il pensiero che, trovandomi con voi, senza saperlo, ho commesso una maldicenza, punto riflettendo che facevo del male, quando vi ho detto che mi si ingannava un poco. Se allora mi fossi accorto che era male, avrei senz'altro taciuto. Ve ne prego, signore, non parlatene con alcuno. Ne ho avuto dispiacere, perché non si devono perdere i beni del cielo per i beni della terra. Una contrizione così perfetta, per l'ombra di una colpa, ci dice abbastanza a quale vertice egli abbia portato la delicatezza della carità».